giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Grandi cose si compiono quando gli uomini e le montagne si incontrano. William Blake. Buona domenica anche da parte mia, la prima di dicembre in giardino, dove sono già caduti parecchi fiocchi di neve. Il mese di Natale è quello in cui ci ricordiamo della montagna, che di norma raggiungiamo armati di sci e scarponi. Chiusi gli impianti, bisogna fare di necessità virtù e sfruttare l'occasione per vivere la montagna in modo diverso, scoprirne la natura, a prescindere da funivie o ski lift. E se l'emergenza Covid ci impedisce quest'anno qualunque tipo di viaggio, la montagna ce la possiamo portare a casa sotto forma di genziane, sassifraghe, levisie e altri fiori di cui le nostre Alpi sono ricchissime. Ma prima di andare per fiori, andiamo per boschi, insieme a un forestale del Trentino che da sempre si batte per far tornare la montagna un ambiente naturale e insieme abitato, vivo, dunque seguito e curato, il tutto anche a favore dei cittadini, i cosiddetti turisti, che nella montagna hanno una delle poche possibilità per tornare a rincontrare la natura. Il nostro ospite si chiama Luigi Casanova, ambientalista storico e autore del libro Avere cura della montagna, edito da Altra Economia. Ben trovato al Giardino Segreto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori e buona domenica. Molti dicono che la montagna non è soltanto sci, ecco, è qualcosa che vale in particolare quest'anno, cosa dice? Certo, quest'anno per via della pandemia questo dato diventa eclatante, però dobbiamo anche dire che già nel passato, nel recente passato, in montagna non vi hanno vissuto solo stazioni sciistiche importanti, ma hanno condiviso vita, sofferenze e impegno anche aree che vengono magari definite marginali, ma che sono strategiche per altri motivi all'interno del patrimonio dello Stato e anche per chi vive nelle città, nelle aree urbanizzate. Quindi parla di quelle aree che non sono, come dire, obiettivo del turismo di massa, perché anche in montagna esiste. Sì, abbiamo delle zone, specialmente nelle Alpi, molto forti, insomma facciamo due o tre nomi, Cortina, Bormio, Cervinia, ma anche all'interno delle Alpi ci sono delle sacche di spopolamento veloce della montagna, pensiamo alla Carnia, a buone parti del Bellunese, a zone del Cuneese e poi l'Appennino praticamente è quasi interamente coinvolto da questo continuo spopolamento del territorio, un vero e proprio svilimento che a mio avviso è partito da politiche insensate dello Stato italiano nel passato, quando ha cominciato a togliere alla montagna i servizi essenziali. Ecco, da questo punto di vista, non crede che questo potrebbe essere, volendo a tutti i costi cercare dei lati positivi in questa pandemia, potrebbe essere un anno d'oro per aprire gli occhi nei confronti della montagna, per comprenderla, comprenderne anche i problemi, no? Chi viene in montagna quest'anno e ha più tempo, forse anche una maggiore predisposizione e sensibilità, visto anche ciò che sta accadendo, come appunto può rendersi conto di quello che serve alla montagna e come può anche rendersi conto del perché, ad esempio, è successa la tragedia di Vaia? Sì, ecco, proprio guardandoci intorno, questo è un compito di noi che siamo rimasti ad abitare la montagna. Vede, le faccio un esempio. Biodiversità non significa non lavorare le foreste. Significa intervenire lavorando nelle foreste pensando al domani, pensando alla diversità delle piante, quindi basta boschi, monospecifici. Salendo in montagna noi notiamo i cosiddetti boschi monospecifici, cioè che cosa troviamo sulle nostre Alpi prevalentemente? Abeti? Larici, sì. Quindi monoculture. Sì, troviamo le conifere più che altro. Prendendo spunto da Vaia, Vaia ci dice che è finita l'epoca dei boschi coetanei, monospecifici, facili da lavorare, e invece è venuto il momento di investire in una forestazione più complessa, che sappia rispondere a tutti i valori ecosistemici del nostro territorio. Fare questo costa di più. E allora ecco che viene chiamato in causa ancora una volta lo Stato italiano. C'è bisogno di risarcire le popolazioni della montagna. Ecco, il manifesto di Camaldoli, che introduce appunto non a caso il mio libro, è importante da questo punto di vista perché dà anche delle indicazioni su come risarcire i valori ecosistemici che la montagna offre a tutto il paese. Senta, lei non crede che tutto questo passi anche attraverso una maggiore consapevolezza proprio della popolazione? I cittadini che arrivano in massa a sciare la conoscono pochissimo la montagna, ma perché non hanno avuto e non hanno gli strumenti e la possibilità di farlo. Ecco perché io dico approfittiamo di questi momenti per avvicinarci alla natura, conoscerla e conoscere poi significa anche amare, amare significa anche voler proteggere. In questo senso, chi sale in montagna quest'anno ha dei luoghi dove può, non dico trovare, ma intravedere quello che potrebbe essere un bosco naturale, cioè non un bosco realizzato dall'uomo, per capire come poi potrebbe diventare il tutto. Vede, la porta della natura è rappresentata dalla diversità nel mondo dei fiori, nel mondo dei muschi o dei licheni. Per fare un esempio, quando si cammina in un bosco ai margini di un sentiero, si comincia a guardare sotto le piante grandi o accanto alle ceppaie che tipo di essenze vegetali stanno crescendo, e ci si accorgerà che accanto ai larici o accanto agli abeti cominciano ad esserci il sorbo rosso, il ciliegio selvatico, comincia ad esserci la betulla, troviamo nella parte più bassa ad esempio le faggete. Ecco, allora dovremo avere la capacità di favorire la crescita di queste specie e di smetterla invece di favorire solo la diffusione delle grandi conifere. Sa che quest'estate sono andata in foresta Umbra, che non è in Umbria ma è nel Gargano, no? Nel cuore del Gargano in Puglia, quindi vicinissimo al mare, e lì ci sono dei tratti che vengono lasciati, come dire, andare, vorrebbero ricreare in alcuni punti una sorta di foresta nativa. Ci sono alcuni punti in cui la vegetazione in questo senso già è in uno stato avanzato e sono naturalmente i punti più disordinati della foresta. Ma quella non è sporcizia, sono tronchi caduti che vengono lasciati per poi ricreare il ciclo della vita, è così? Certo, io sono uscito più volte dalla foresta Umbra, più ricco di spine che non di altro, insomma, proprio nell'andare a cercare spazi di questo tipo. Ma anche nei nostri boschi abbiamo delle situazioni che vengono definite anche dai valigiani di disordine o addirittura apostrofate come boschi sporchi. Bene, se eravamo abituati nel passato, per via del grande bisogno di legna per riscaldamento, a mantenere tra virgolette i boschi puliti, cioè sgombri da ogni cimale, da ogni ceppaia, bene, adesso non è più questo. Vedere le piante a terra è una ricchezza del nostro territorio, perché andiamo a lasciare alla marcescenza, all'evoluzione naturale, un grande patrimonio di necromassa che poi si trasformerà in una maggiore ricchezza naturalistica. Ecco, vedere in una superficie boscata magari anche decine e decine di piante lasciate a terra, marce, ricche di muschi o di licheni, lo dobbiamo cominciare a interpretare come una ricchezza, e noi cominciamo a diventare un po' poeti del bosco, e allora nel bosco rimarranno sempre più spesso piante a terra, anche vicino a sentieri, anche vicino alle strade forestali. Aver cura della montagna, edito da Altra Economia, l'autore è il nostro ospite Luigi Casanova, e il sottotitolo è L'Italia si salva dalla cima. Perché salvare la montagna vuol dire salvare l'Italia? Perché l'Italia è coperta al 60% da territorio montano, perché le foreste coprono il 34% del territorio italiano, perché la montagna, assieme alle foreste e ai pascoli ben gestiti, offre una tal quantità di servizi ecosistemici che trasportano sicurezza dall'alta quota verso le città. Un solo esempio: è possibile che ogni volta che arriva una mezza giornata di perturbazione la Liguria debba sopportare danni così importanti? Questo è causa nostra, perché abbiamo gestito male le alte quote. E al di là invece di tutte queste motivazioni logiche e razionali, lei che ha vissuto e vive in foresta da sempre, in questo caso in Val di Fiemme, proprio dal cuore, che cosa significa vivere in foresta? Cosa dà la montagna? Diciamo, io dico quello che provo io. Certo. È solo entrare in una foresta, innanzitutto una sensazione di rilassamento, di serenità, che altrove è molto più rara da trovare. Poi la capacità di raccogliere i profumi che la foresta emana, la capacità di sentire i tanti diversi silenzi, perché c'è silenzio, il silenzio all'interno del bosco, c'è il silenzio del canto degli uccelli, c'è il silenzio del rumore di un animale che attraversa vicino a me, rompe due o tre rametti secchi. Allora silenzio e rumori che si accostano ma all'interno di un equilibrio tutto particolare. E poi la capacità di osservare con gli occhi, di guardare quello che abbiamo in alto, e la capacità ancora di pensare a quanto c'è sotto i nostri piedi. Teniamo presente che se noi un albero siamo abituati a vederlo dal suolo verso l'alto, due terzi della vita di quell'albero si svolge sottoterra. È dobbiamo un intreccio infinito di alberi che si aiutano e vivono insieme. Sì, appunto, e sotto le radici e tutto quanto si muove sottoterra, non percepibile a noi, crea una situazione di vita, una situazione di condivisione fra le piante, una situazione di sensibilità, di comunione estremamente importante. Allora, anche mentre si cammina, possiamo cominciare a pensare cosa abbiamo sotto i nostri piedi e su quanta ricchezza stiamo camminando. Ma anche in un pascolo alpino, in un pascolo sgombro da piante, io posso cominciare a guardare la cotica erbosa, posso cominciare ad osservare la varietà dei fiori, a distinguere le orchidee da altre associazioni floristiche che sono presenti. Insomma, se noi con la nostra curiosità riusciamo a tenere presente la forza dei nostri cinque sensi e a svilupparla all'interno di una foresta, sicuramente ogni passeggiata diventa una scoperta. L'uomo chiese alla montagna di toccare il cielo. La montagna realizzò quel suo desiderio. La biodiversità della montagna si manifesta anche attraverso i suoi tantissimi fiori. Alcuni faremo in modo di portarli su terrazzi e balconi di città, tra poco. Il giardino segreto. Siamo pronti a scoprire quali fiori possiamo trovare sulle nostre montagne e quali possiamo procurarci perché arricchiscano i nostri giardini urbani o i nostri balconi. C'è in Piemonte un vivaista che, nonostante le difficoltà, le piante delle Alpi le coltiva e le vende. Si chiama Marco Picca Piccon e il nome del suo vivaio, a Corio, in provincia di Torino, già dice tutto perché si chiama Vivalpi. Ben trovato al Giardino Segreto. Sì, buongiorno. E beh, sì, il nome vuol dire viva le Alpi. Siamo 800 metri di altezza, comunque vicino a Torino, sulle montagne sopra Lanzo e Corio, e siamo operativi dal 1996, quindi insomma, non siamo solo proprio il vivaio classico, siamo collegati anche al nostro piccolo ristorante. C'è il ristorante perché io so che lei è anche un cuoco, però in realtà coltiva piante alpine, perché? Allora, l'idea nasce dalla necessità di potenziare tutte quelle che sono le risorse legate al territorio. Il ristorante è sempre fatto un po' la parte del leone, però era importante, secondo me, valorizzare anche tutto quel valore aggiunto che riguarda il territorio. Noi stiamo ultimando anche un rifugio alpino. L'idea è proprio di poter così presentare un territorio rinnovato con tante possibilità. Una montagna che può anche fare meno dello sci. E beh, certo, noi non siamo mai stati, diciamo, siamo sempre stati un po' una montagna di serie B, tra virgolette. Non abbiamo piste da sci, non siamo inseriti in questi circuiti, però, per esempio, abbiamo sviluppato all'interno del comune una rete sentieristica molto importante. Abbiamo recuperato quasi 80 chilometri di sentieri. Senta, poco fa ho parlato con Luigi Casanova, un forestale, un ambientalista innamorato della montagna, e lui ci ha fatto capire che la cosiddetta montagna di serie B è in realtà tutta da scoprire. Ma io ho scoperto, leggendo il suo sito, che la flora delle Alpi comprende 3/7 dell'intera flora europea. E beh, questo è vero, sì, se poi consideriamo tutta la flora italiana, insomma, è un patrimonio enorme. Resta da capire come mai in generale gli italiani siano, in tutto sommato, così poco avvezzi, siano così poco preparati per conoscere questa grande ricchezza che è il nostro patrimonio. Siamo qui apposta per far capire alle persone il patrimonio che abbiamo. E quindi ce lo racconti lei, quali sono le caratteristiche dei fiori alpini? A tutti viene in mente la stella alpina. Ma sì, in effetti gli esempi sono tanti. La stella alpina è una pianta molto interessante, ma forse non tutti sanno che l'origine del genere della stella alpina non è propriamente quello alpino, ma sono gli altipiani asiatici. Quindi, se vogliamo citare una pianta proprio strettamente legata all'evoluzione delle Alpi, dobbiamo parlare della genziana cocchiana, della genzianella, quella che tutti conoscono, questo meraviglioso fiore blu. E già abbiamo avuto la sorpresa, cioè abbiamo capito che la stella alpina non è originaria delle Alpi. E sì, ci rimangono tutti male. Ma ci siamo rimasti malissimo. Scusi se vi faccio una risatina, ma è così. Cioè, noi abbiamo normalmente nei nostri testi, diciamo, tre fiori che rappresentano le Alpi. Uno è la stella alpina, un'altra specie che è molto rappresentata e che vale lo stesso discorso è il rododendro. Anche il rododendro è una specie che non è propriamente alpina, nel senso che si è stabilita in tempi più recenti, ma tutte sempre nell'area asiatica. E appunto l'arnica che tutti conosciamo, che adesso è entrata di gran moda perché ha delle proprietà interessantissime, pare che appunto il genere sia originario dell'America del Nord, mentre specie nostre hanno fatto un percorso inverso. Certo, no, ma il fatto che alcune piante vengano da lontano non toglie nulla al loro fascino e all'emozione poi di riuscire a intravederle, a trovarle passeggiando in montagna. Ma tornando ai fiori prettamente alpini. Abbiamo parlato della genziana, abbiamo molte sassifraghe. Tra l'altro le sassifraghe hanno un posto di rilievo, diciamo, nel catalogo mondiale, visto che ne abbiamo un'ottantina di specie su 400 di quello che poi è la flora di tutto il pianeta. Poi abbiamo Daphne, abbiamo Narcisse, abbiamo primule tantissime, tra le più belle primule rupestri. Veramente sarebbe impossibile fare un elenco, sono tutte piante talmente belle che certo la persona che si approccia a un fiore che non conosce si chiederà che cosa sarà mai questa meraviglia. Sì, ed è quello che mi suscitano le fotografie che vedo anche delle sassifraghe. Lei sa che c'è una giornalista del Verde che è molto nota, è stata ospite anche al Giardino Segreto ed è Mimma Pallavicini, che lei sicuramente conosce. Sì, sì, ecco, lei ha confidato che una delle sue grandi passioni, anche uno dei suoi più grandi dolori, è prima avere coltivato e poi avere perso, nonostante le sue bellissime cure, una sassifraga. Evidentemente queste piante hanno un fascino particolare per colpire una persona come Mimma Pallavicini, che tra i fiori vive da sempre, no? Tra tutti i tipi di fiori. Perché le sassifraghe sono così affascinanti? Sassifraghe che spaccano i sassi, piante da giardino roccioso, dico giusto? Sì, pianta che spacca i sassi, perché questi cuscini si aggrappano, rimangono, vivono, si moltiplicano in posizioni straordinarie, quindi riescono a sopravvivere con pochissimo nutrimento, sopportando delle condizioni veramente avverse. Sassifraghe è un argomento molto ampio, perché bisogna capire che ci sono specie che vivono ad alte quote, con questa classica forma cuscinetto che poi le difende dal peso della neve, serve a raccogliere meglio il calore del terreno, resistono ai venti, alle grandinate, via dicendo. E poi, scendendo più in aree più basse, ci sono sassifraghe con un portamento più erbaceo, quindi con foglie più larghe. L'effetto comunque è sempre lo stesso, questi fiori delle volte rosa, gialli, bianchi, delicati e poetici che spuntano dalla roccia. Sì, sono straordinari, in effetti hanno una gamma di colori e di forme straordinarie, si coprono quasi tutti i colori e si sfiora il blu. Ecco, il blu puro non è presente in quel genere lì, voglio dire, è una scoperta, diciamo, avvicinarsi al mondo delle sassifraghe. Beh, il giardino roccioso è una passione ormai per sempre più persone e credo di riuscire a comprendere il perché. Lei del resto è rimasto stregato da queste piante. Di sassifraghe alla fine ne ho collezionato circa 200 specie. Ha una sassifraga del cuore? Oh, guardi, c'è una sassifraga che mi piace molto, che in verità non è proprio quella forma compatta, una sassifraga alla vairedana, che piaceva tanto vairedana. Anche alla vairedana. Vairedana, sì, una sassifraga che viene dalle Ture vicine a Barcellona, ha la caratteristica di avere un profumo intenso, quasi di cannella e noce moscata. I fiori sono bianchi, comunque è una pianta molto molto graziosa. Poi sono tutte stupefacenti, perché è vero che poi fioriscono una volta all'anno e solo una volta in primavera, ma quando ci si trova davanti a questi cuscini completamente coperti di fiori sgargianti, insomma, insomma, è proprio il canto della primavera che si affaccia. Senta, per tutti coloro che non riusciranno ad andare in montagna in questo anno così, così speciale, definiamolo così, come facciamo a portarci a casa un po' di flora delle Alpi? Ci dà dei consigli, non per gente molto espertissima. Mi rendo conto che non siano piante facilissime, però ecco, le più adatte ad essere e a stupirci e a stupire ed a introdurre nei piccoli giardini urbani o anche in vaso. Ma allora, intanto bisogna un po' sfatare questa cosa del fatto che le piante alpine siano poi così difficili. Questo, quello che posso dire è questo: fare dei trapianti mirati, cioè fare dei trapianti, rinvasi, nei periodi giusti. Normalmente la divisione e il rinvaso, via dicendo, si fanno sempre in primavera, e questo vale per tantissime piante alpine. Quando noi abbiamo questo vaso completato, non bisogna più andare a disturbare questa pianta, specialmente in estate, perché la pianta è già sotto stress per via del caldo. Bisogna assolutamente evitare di andarla a disturbare quando la pianta è sottoposta al caldo, che chiaramente non è proprio la sua condizione. Quindi le nostre piante delle Alpi le dobbiamo assolutamente lasciare tranquille nei mesi estivi. Esatto. Travasi a primavera. Sì, ma tutte, direi, è sempre la regola migliore. Certo. Due nomi per due piante da portarci a casa in vaso. Visto che il suggerimento è rivolto a chi ha dei balconi, io trovo molto conveniente, per esempio nei balconi posti in sole totale, per esempio coltivare piante di antennaria o di dianthus, che poi sono i garofani. Ci sono tante specie proprio rupestri che vanno benissimo per il balcone soleggiato, mentre nella mezz'ombra o nei balconi più esposti a nord possiamo ottenere le lisie, campanule, primula, del genere primula. Come si presentano le levisie, che oltre alle campanule vanno benissimo in ombra o in mezz'ombra? Ma allora, la levisia è una pianta molto generosa in fioritura. Le dirò, a Milano l'ho sperimentata più volte su balconi, appunto a nord. È una specie di origine nordamericana con tutta una bella lunga storia. E tra l'altro una pianta che è veramente di pochissime pretese, perché essendo una succulenta, nel caso si dimentica di bagnarla, la pianta non si offende troppo, ecco. Ombra, mezz'ombra, levisie e campanule, al sole, l'antennaria e il dianthus. Come è fatta l'antennaria? L'antennaria si chiama anche zampa di gatto. È una pianta che forma un cuscino compattissimo, grigio, quindi per gli amanti delle foglie grigie è sicuramente una pianta da scoprire. Poi porta questi fiori rosati o rossi a seconda della cultivar, che chiaramente anche lì li vediamo una volta all'anno, però va detto che è una pianta molto molto robusta per il vaso sul balcone. E le genziane? Le lasciamo in montagna? Sì. Io sinceramente non mi sento di consigliarla a tutti, perché è una pianta che dovrebbe essere coltivata, diciamo, dai 300-400 metri in su. Se passeggiando in montagna incontriamo una stella alpina, una genziana, una sassifraga, la guardiamo, la odoriamo, ma non possiamo coglierle. E beh, a parte, certo, le piante alpine sono tutte protette. Porta i baci sulle cartoline, profumati dalle stelle alpine, una a te, una a me. Il sito del vivaio di Marco Picca Piccon, anche per vedere le piante di cui fino adesso abbiamo parlato, è vivalpi.it. Il sito per riascoltare questa e le altre puntate del Giardino Segreto invece è radio24.it, dove trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate scrivermi, e poi esistono le tante piattaforme podcast. Ci sentiamo domenica prossima alle 15.30 col Giardino Segreto, e non dimenticate che venerdì prossimo, l'11, è la giornata internazionale della montagna. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.